diranno tu non puoi, ti diranno non sei in grado, chiederanno come stai, dopo averti pugnalato, non importa cosa fai, tu rispondigli sincero, con i piedi sempre a terra, con il terzo dito al cielo. Non siamo in fondo poi così diversi, fingiamo sempre di fregarcene ma poi cadiamo a pezzi, come se servisse farsi dei complessi. Ricordati che l'essere all'altezza viene scelto da noi stessi. Quando vinci tutti amici, quando perdi sei solo, soltanto tu non ti dimentichi chi sono. Quando ti scrissi il primo testo che cantavo timido, a quando avevo un palco sotto i piedi che ti regalavo un brivido, ti giuro che non smetto di provarci, perché soltanto se cadiamo insieme viene facile rialzarsi. Non piangere, non piangere, ogni volta è come se per vincere sai perdere persino me. Non siamo fatti per sorridere a comando, noi col ritornello lo cantiamo solo urlando, con la voce sporca già dalla mattina, con delle facce da buttare dalla sera prima, che ci incazziamo perché ci parliamo sopra se abbiamo ragione noi. Litigate che finiscono con un fai come vuoi, appena svegli non ci devi nemmeno parlare poi, figuriamoci a capirci, impazzirebbe pure Freud. Ehi, forse non ti merito, che ti chiamo sempre solo con l'addebito, che non dormo e sono sempre nevrastenico, in ritardo da una vita come un medico, ma una lacrima da sola non può spegnere una fiamma, io ho la faccia di un bastardo ma con gli occhi di mia mamma. Mi sognavo sopra un palco mentre tu sognavi e basta, quando tutto era impossibile eri tu a darmi speranza. Se ti diranno che non è abbastanza, lascia pure che lo dicano, ma credi in me. Non piangere, non piangere, ogni volta è come se per vincere sai perdere persino me. Quanta strada ho fatto per sentirmi ancora perso, noi due gocce d'acqua ma senza nessuno specchio, che vogliamo tutto e ci stanchiamo anche di questo, come quando fumo dopo il sesso, fumo e non ci penso che nessuno ha mai sentito il tuo profumo come adesso, che lottiamo da una vita e ci sfoghiamo dentro un letto, che facciamola finita, giuro non te l'avrei detto. Non piangere, non piangere.